Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Ed eccoci qua su Radio Wombat. Abbiamo concluso la lettura del secondo libro di Nanni Balestrini e del terzo libro della serie dei Libri Ribelli. Questo libro, Gli Invisibili, viene pubblicato da Bompiani nel 1987. Altre edizioni si sono succedute nel 90 e poi nel 99. E infine è stato ripubblicato da Derive a Prodi nel 2005. Se volete scaricare e risentire i podcast di Libri Ribelli, vi ricordo che dovete andare sul sito radiowombat.net, dove tra l'altro trovate anche il PDF sia degli Invisibili che degli altri libri già letti. Secondo me questo romanzo di Balestrini è il migliore che abbia scritto. Gli Invisibili è la storia di Sergio, un ragazzo dell'autonomia della provincia di Varese, effettivamente esistito, insomma, è tuttora in vita. Ma attraverso Sergio viene raccontata dall'interno la storia collettiva dei ragazzi che hanno fatto il 77, dove il personale si fonde con il politico. Vogliamo tutto era un romanzo epico dell'operaio Massa, migrato dal sud e approdato alla catena di montaggio delle grandi fabbriche del nord, dove si ribella. È la sua epopea, ma Gli Invisibili rappresenta la vita, con tutte le sue contraddizioni del vissuto, dei compagni che hanno creduto nella possibilità di costruire un mondo migliore, con le loro utopie, le loro speranze, le loro illusioni e il tentativo di vivere una socialità diversa e migliore. Questa voglia di un mondo migliore purtroppo è stata sconfitta, anche se ha lasciato un'eredità, e noi lo sappiamo, lo vediamo, e ha seminato qualcosa e vive ancora, magari percorrendo dinamiche diverse da quelle intraprese negli anni 70, che comunque tendono a costruire un mondo migliore. Balestrini riesce perfettamente in tutto ciò, compreso il terribile senso di sconfitta ambientato nelle carceri italiane, dove una buona parte dei protagonisti finiscono. La parte finale, infatti, è incentrata nella sommossa nel carcere. Il riferimento è sicuramente alla tragica rivolta di Trani, con la disumana reazione degli agenti, il massacro dei detenuti e la completa distruzione del penitenziario, sempre fatta dai poliziotti, carabinieri e agenti della polizia penitenziaria. Viene così rappresentato lo Stato che si contrappone a chi aveva sognato una libertà più grande. Una cosa curiosa sono i nomi inventati, dati ai protagonisti, che hanno un loro significato. Questo però, lo farei dire direttamente all'autore, in un'intervista rilasciata nel 1988 sul set di quello che poi diverrà un film, Gli Invisibili. Ne parleremo dopo. Senti, una domanda sui nomi, i nomi dei personaggi che sono molto curiosi nel libro. Che tipo di scelta è stata quella di usare quel particolare tipo di nomi? Ma questo continua un po' quello che dicevo prima, proprio non identificandoli psicologicamente questi personaggi, ed essendo appunto come caratteri abbastanza intercambiabili, hanno una definizione con dei nomi che sono dei nomi di piante medicinali, di piante buone, mentre gli antagonisti, magistrati, giudici, poliziotti, eccetera, hanno nomi di animali un po' rapaci, un po' feroci. Ora, questo proprio per avere due categorie molto schematicamente definite in cui poter immediatamente riconoscere, come dire, i bianchi e i neri, no? Un po' la stessa cosa. Nel 1988, come dicevo prima, è stata tratta una versione cinematografica del libro di Balestrini per la regia di Pasquale Squitieri, che però stenta a rendere l'atmosfera del libro, nonostante alla sceneggiatura abbia partecipato anche Nanni Balestrini. Probabilmente a causa della lunghezza del libro, era estremamente difficile rendere nei tempi di un film tutta la complessità della narrazione. Il film è infatti ambientato quasi esclusivamente in carcere, con una serie di flashback relativi alla vita del movimento dei protagonisti. Pasquale Squitieri, tra l'altro, ha una storia abbastanza complicata, perché poi, dopo aver realizzato il film, negli anni successivi, diventerà addirittura senatore per Alleanza Nazionale. E poi ci ripenserà ulteriormente e diventerà un esponente del Partito Radicale, tra l'altro scagliandosi appunto anche con personaggi dello Stato, per cui insomma prendetelo così, è un personaggio di questo tipo. Nel film il personaggio principale, Sergio, diventa Sirio, un giovane operaio delle acciaierie di Terni, e tra l'altro appunto i flashback sono ambientati invece che a Varese, dove viveva Sergio, sono ambientati appunto a Terni. Sentiamo sempre alla voce di Nanni Balestrini le sue riflessioni sul film e sul libro, nell'intervista appunto, sempre nella stessa intervista di cui abbiamo sentito una parte prima. Quando hai scritto questo libro, l'hai scritto in un modo in cui era già presente una possibile sceneggiatura del film? Hai pensato già che potesse diventare? No, assolutamente no, questo, e penso che sia difficile fare un romanzo già avendo in mente questo, perché la maniera di pensare un libro, di pensare un romanzo, di realizzarlo è totalmente differente da quella che poi, anche se da questo poi verrà fatto un film, inevitabilmente le trasformazioni devono essere tali che la parte di concezione iniziale non può essere la stessa. Senti, quando tu hai saputo che veniva fatto un film da questo libro, che è un libro molto duro, molto particolare, che racconta una generazione, racconta dei personaggi che ormai non trovano ospitalità sui giornali se non per cronache giudiziarie, e comunque sono personaggi di un decennio che si preferisce dimenticare. Quando hai saputo invece che veniva fatto il film, che tipo di sensazione hai avuto? Cosa hai provato? Ma guarda, una reazione quella è stata proprio diretta nel regista di questo film, cioè da Pasquale Squitieri, che è mio amico e che ha letto il libro appena uscito, e ne è rimasto entusiasta, gli è molto piaciuto, e immediatamente lui ha visto questa possibilità di farlo un film, gli è piaciuta subito l'idea di poterlo fare, per cui questa non è una notizia che è venuta dal di fuori, ma mi è venuta dal mio rapporto con lui, questo. E anche adesso, un anno dopo che si sta facendo questo film, io vedo che lui ha sempre questo entusiasmo che mi fa molto piacere. Senti, questo libro che racconta appunto le storie di ragazzi del 77, questo viaggio attraverso le carceri, è stato difficile poi renderlo per il cinema, utilizzare il linguaggio che usi tu abitualmente nei libri per trasformarlo in immagine? Che lavoro avete dovuto fare sulla sceneggiatura? Quanto hai modificato? Quante cose hai perso e quante se ne sono guadagnate? Ma non è, prima di tutto non è tanto un fatto di linguaggio, perché nel cinema, in questo film, ci sono il linguaggio che io posso aver utilizzato, sono i dialoghi, dunque è qualcosa che nel libro non ci sono dialoghi, sono dialoghi indiretti, dunque non è che ci sia un fatto stilistico che accomuna questi due aspetti linguistici, ma piuttosto di struttura. Allora, questo chiaramente innanzitutto si è dovuto ridurre drasticamente il libro, perché un film è sempre qualcosa di più limitato nel tempo che un libro. E in particolare si è accentuato la parte del carcere, si è limitato la parte precedente all'incarcerazione del personaggio, alcuni flashback che saranno intervallati nel periodo del suo carcere. E un'altra cosa che ha richiesto un grosso intervento, il lavoro della sceneggiatura in pratica, è stato quello di creare dei personaggi, perché nel libro, e questa era un'intenzione per voler rappresentare che la storia di questo libro è una storia collettiva, la voce che racconta lo racconta di se stesso, se non la sua esperienza collettiva, ed è piuttosto una voce che vede, che osserva e che descrive. E i personaggi raccontati sono non sono molto definiti psicologicamente, questo anche per voler dare un'impressione collettiva. Ora, questo chiaramente nel cinema è impossibile, perché un personaggio lo vede, ha una faccia, ha un carattere, e questo gli è stato dovuto creare ogni volta. Senti, nel libro, che è appunto scritto in modo particolare, qui si passa da un periodo a un altro, vengono raccontate delle storie di vari momenti che si intersecano fra loro. Sei riuscito a rendere in sceneggiatura questi passaggi? Beh, un po', appunto, come dicevo prima, utilizzando il flashback, che non è la stessa cosa nel libro, perché nel libro appunto c'è un intreccio di due periodi, cioè la contemporaneità del carcere e il passato del personaggio, ma che non è rivissuto nella memoria. Chiaramente anche questo nel cinema non è possibile, dunque si è utilizzato questa vecchia forma, tradizionale forma del flashback, che permette di identificare la storia passata del personaggio attraverso alcuni momenti. Il film esce, come abbiamo detto, nel 1988, quindi viene concepito e realizzato subito dopo il rientro in Italia di Balestrini, perché nel 1979, nell'ambito dell'inchiesta 7 aprile condotta dal giudice Calogero, Balestrini fu accusato addirittura di costituzione di banda armata e quindi si rifugiò prima in Francia e poi in Germania, e fece ritorno in Italia solo nel 1985, quando fu completamente prosciolto dalle accuse. Ascoltiamoci un altro pezzetto della intervista appunto a Nanni Balestrini, rilasciata nel 1988. Senti, tu hai scritto altri libri, Come vogliamo tutto, come la violenza illustrata, che però non sono stati trasposti in un film. Pensi che oggi sia cambiato qualcosa, che si possano anche fare film su questi argomenti, oppure perché solo perché questo libro si prestava di più? No, io penso che in genere si possano fare dei film anche da libri che sono solo uno spunto per un film, che poi subiscono anche in sceneggiatura una trasformazione più grossa di quello che ha subito questo libro. Penso che sia invece su temi di questo genere che per varie ragioni i film in Italia sono scarsi, quasi inesistenti, forse i libri anche. Comunque non c'è un'attenzione da parte non solo di gente che fa cinema, ma anche di letterati, a occuparsi di questo periodo, cioè degli anni 70 in sostanza, che è un periodo che dovrebbe offrire una ricchezza enorme di temi di ogni tipo per essere raccontati, per essere trattati. E questo perché non avviene? Senti, tu hai vissuto le storie raccontate dal libro, magari in modo diverso, magari in modo più laterale, però le conosci abbastanza bene, anche perché sei stato colpito anche tu da quello che è stata la repressione degli anni 70 e così via. Oggi, rivedendo le scene del film, quelle già girate, rivedendo i primi rush del film, ti ritrovi quello che hai scritto, ritrovi quegli anni, senti che in qualche modo corrisponde questo film a quello che hai scritto e a quello che hai vissuto. Ma questo penso che si potrà dire quando il film sarà montato, finito, anche perché la cosa penso più pericolosa sarebbe quella di poter pensare di rifare oggi un'epoca, sappiamo sempre che è vista con gli occhi di oggi, per cui voler ricostruire una cosa di ieri senza pensare che è vista con gli occhi di oggi rischierebbe di avere degli effetti anche disastrosi. Però il problema è quello sempre di dare delle indicazioni che sono sempre un po' laterali, penso, no? di suggerire una cosa più che mostrarla direttamente. E questo riguarda anche una parte del film piuttosto limitata, cioè la parte fuori dal carcere, perché all'interno del carcere è un mondo, io penso, talmente sconosciuto alla maggiore parte delle persone, anche se personaggi come quelli di questo libro, di questo film che ci sono stati moltissimi della generazione precedente. Però è un mondo che penso che mostrato attraverso sorprenderà molti, perché non è un mondo che molta gente si immagina come veramente. Nanni Balestrini, come abbiamo già detto dopo la lettura di Vogliamo Tutto, purtroppo è morto nel 2019. È stato poeta, scrittore, saggista, sceneggiatore. È stato tra i fondatori di Potere Operaio e dal 1976 aderisce all'Autonomia Operaia, collaborando al giornale Rosso. Balestrini in questo libro elimina qualsiasi segno di interpunzione, punti, virgole, ma anche i punti interrogativi, con una scrittura fatta di blocchi, di brevi paragrafi, con l'intenzione di rendere il più possibile la narrazione vicina al racconto orale. Infatti è stato molto impegnativo riuscire a leggere il libro cercando, forse senza successo, di dare la giusta intonazione. La ricerca dell'oralità non si limita all'eliminazione della punteggiatura, ma è costituita anche da uno stile tipico del parlato, con continue ripetizioni delle stesse parole per dare maggiore enfasi al racconto. E a questo punto sentiamoci un pezzo che fa parte della colonna sonora del film, appunto, Gli Invisibili, che è Celebration della premiata Forneria Marconi. Il pezzo che ci siamo ascoltati ha anche un altro nome, tra l'altro, si intitola anche È Festa, si capisce anche dal testo della canzone che abbiamo sentito. E non so perché, probabilmente per Celebration per il mercato internazionale e È Festa per il mercato italiano. Ritornando al libro, sicuramente la generazione di compagni raccontata da Balestrini nel libro ha lasciato qualcosa alle generazioni future, nonostante che sia stata sconfitta. Toni Negri, in una sua prefazione al libro Gli Invisibili, afferma che già nei primi anni Ottanta cominciava a configurarsi un soggetto multitudinario, singolare, trasversale, che non voleva mai ridursi a massa, ma che voleva in ogni caso essere un insieme. E beh, io direi di sentirci un altro pezzo, sempre tratto dalla colonna sonora del film Gli Invisibili, sempre della premiata Forneria Marconi, e che ha un titolo tra l'altro impronunciabile, Mr. Nine Till Five. Thank you. Il libro si chiude in un'atmosfera estremamente cupa, in cui si racconta il vissuto dei protagonisti in carcere che dà la dimensione della sconfitta, che contrasta con la voglia di vivere e di condividere l'esperienza di movimento con la voglia di rivoluzione vissuta precedentemente. Viene raccontato infatti che i compagni in carcere fanno dei buchi nelle grate per far passare delle fiaccole che però solo gli automobilisti che sfrecciano lontanissimi sull'autostrada o magari i passeggeri di un aeroplano in volo forse vedono, ma forse neanche loro riusciranno a comprendere quest'ultimo atto di protesta. Con questo chiudiamo e mandiamo un altro pezzo. Sempre alla colonna sonora del film, questa volta però si va sul classico, infatti si tratta dell'ouverture del Tannhäuser di Wagner. Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che il sole ha ridotto già vecchi. Libri ribelli.